Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo il nostro sito radio24.it, nuovo, più facile da consultare, o almeno questa è la nostra speranza, con delle schede di facile lettura, la possibilità di scaricare immediatamente le puntate, immediatamente o quasi ovviamente il tempo di caricarle. Via podcast si possono sentire tutte le puntate della mia trasmissione, ma anche delle altre programmazioni di Radio 24. Sul mio profilo troverete anche l'aggancio al mio blog Guardie o Ladri, che trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore online o con un qualunque motore di ricerca. Allora, alcune settimane fa abbiamo affrontato il tema della facilità con la quale società di cui non si conosce nulla avvicinano, non si sa come, clienti, proponendo loro di vendere per pochi soldi auto rottamate, auto disastrate, auto combinate male, con un trapasso, quindi con un passaggio di proprietà molto immediato, non si capisce come dovrebbe essere effettuato. E quindi dietro queste mail in cui c'è soltanto un numero di cellulare, una mail senza un indirizzo societario, insomma c'è poco o nulla. Non dico che ci sia dietro per forza una truffa, ma bisogna comunque alzare le antennine. Ce l'ha ricordato anche l'esperto giornalista di motori Roberto Rasia. Oggi siamo in un caso simile, ma comunque interessante. Perché? Perché qui l'indirizzo societario in qualche modo c'è. L'argomento quindi l'ho introdotto, ma per svilupparlo meglio ascoltiamo la mail che è giunta a me, come chissà quanti di voi in questo momento, pochi giorni fa in redazione. Salve, siamo una società di vendite di auto usate, SPA, più grande di tutta l'Inghilterra. Abbiamo l'autovetture di tutte le marche e modelli. Offriamo discount fino a 50%. Se siete interessati alle nostre offerte, non esitate a contattarci via email a autoscontatiusate@hotmail.com. Vi ricordiamo che la nostra società SPA a vostra disposizione 7 giorni su 7. Per informazioni, SPA Manager Regionale Italia 138 140 Bedminster, Bristol. Telefono 0044 703 182 SAP RTM. Bene, questa è la mail che è giunta alla mia casella di posta elettronica. Avrete sentito che noi abbiamo messo dei beep nel nome della società che ci ha contattato, così come dei beep l'abbiamo messo su alcuni numeri telefonici tra quelli che ho citato, per un semplice motivo: è stato impossibile contattare questa società e non mi va certo di fare pubblicità a chi si presenta in questo modo. Ma per saperne di più e per capire quali sono le sensazioni dell'esperto del settore, ho chiamato ancora una volta a parlare con me Roberto Rasia, collega giornalista e direttore di www.turismoinauto.com, un sito molto interessante nel quale potete trovare informazioni a 360 gradi sul mondo delle auto, dei motori e del turismo che adesso si accompagna. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te, grazie per la botta di esperto che mi lascia sempre un po' perplesso, perché più bassico nel mondo dei motori più mi rendo conto di non sapere. Hai ragione, ma già questo ti fa onore, già questo ti fa onore, perché la consapevolezza, come dico sempre, di essere ignoranti è quello che ci manda avanti e fare al meglio il nostro mestiere di giornalisti. Allora, come valuti questa mail? Che tipo di sensazioni hai, Roberto? Mi viene un po' paura, Roberto, un po' come a tutti. Da una parte il sorrisino che nasce, come dicemmo qualche settimana fa, sulla bocca di chi utilizza spesso i mezzi tecnologici è quella di dire: ma non cadrete mica in queste facili truffe. Dall'altra invece la preoccupazione, la mia paura sana, è per coloro che utilizzano poco il computer e di fronte a una mail così cadono nel tentativo di far leva su chi ha un'auto incidentata, il cui valore è pressoché zero, perché ci sono incidenti che lasciano un poco più di una lamiera e tanti debiti a cui far fronte, e c'è il rischio che contattino queste persone magari all'estero spendendo già un sacco di soldi per contattarli e poi addirittura invino dei soldi senza aver niente in cambio. Allora, di nuovo un paio di segreti, un paio di malizie. Fidiamoci poco delle mail generiche, non perché non siano valide, ma perché se noi dovessimo fare una truffa sicuramente compreremo una schedina caricabile di un cellulare e apriremo da un internet caffè una mail Hotmail, Libero piuttosto che Virgilio, eccetera, senza che noi abbiamo nulla contro questi signori che fanno un lavoro egregio, però purtroppo danno adito a lasciare qualche dubbio. Primo. Secondo, fare subito una ricerca via internet nei forum delle auto per capire se già qualcheduno, come tu stai facendo, ha segnalato un tipo di truffa come questa. Ecco, questo è un altro modo che si può utilizzare per capire, perché è un popolo che poi si muove anche sul web e va a dire: attenzione, se vi arriva una mail in cui si chiedono soldi per la rottamazione di un'auto, state attenti perché è una truffa. Ecco, questi sono piccoli certo. consigli. Ecco, poi una cosa che a me ha colpito moltissimo è innanzitutto il linguaggio, che chiaramente è un italiano molto molto stentato, ecco. E già questo non piace molto. Poi perché ci sono i traduttori, no, online, sì, automatici, sì, quindi questi sì. signori traducono in 50 lingue diverse, sparano milioni di mail e vai a sapere, ne sono certo, che qualcheduno fra quei 50 milioni di persone colpite risponde e cade nella truffa. Assolutamente. Ecco, poi non si può ovviamente ascoltare in voce, ma nella mail che ho ricevuto ci sono alcuni caratteri cirillici che non sono stati probabilmente tradotti, il che lascia un po' pensare ad una cosa veramente, devo dire, un po' maccheronica come cosa, ecco. Decisamente, anche perché poi, sai, ci sono società specializzate e professionali che fanno queste cose, hanno altre tariffe e si pongono già in un'altra maniera, per esempio hanno un telefono, un numero fisso invece che un cellulare, che è più facilmente rintracciabile, anche se ora anche in questi casi c'è un certo depistaggio facile da realizzare. Però insomma bisogna avere, come dicevamo l'altra volta, tre occhi aperti, esatto. E non solo due, sicuramente. Ecco, poi affidatevi prego. Dei professionisti. Certo, ecco, certo, certo. Migliore. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, cioè la possibilità che loro spacciano come se fosse una grandissima convenienza e dire: noi abbiamo il più grande mercato dell'auto di tutta l'Inghilterra, venite qui, vi offriamo degli sconti fino al 50%, di cosa, su cosa, su quali listini, non si capisce. Ma mi chiedo poi, se io volessi acquistare effettivamente lì un'auto, già che mi sembra una follia perché voglio già arrivare fino in Inghilterra, in ogni caso la spesa c'è, quindi chissà che razza di sconto dovrei avere, ma poi come faccio ad importarla? Cioè, quali sono le regole che dominano questo mercato, Roberto? Dunque, questo è interessante, è scoppiata una mania proprio su questo aspetto che tu hai sollevato dagli Stati Uniti. La risposta migliore che ti posso dare è: dipende dal paese in cui la compri, perché non è un'attività illecita, si può. Certo. Io posso comprare una vettura online, per esempio negli Stati Uniti, sempre ammesso che mi fidi della persona ovviamente che me la vende, e ci sono delle società nate apposta che si occupano, che spesso la mandano in Germania, quindi c'è un'importazione tedesca dove è più facile immatricolarle con targa tedesca, e da lì poi è più facile portarle in Italia, e poi ci sarebbe un cambio di targa in questo senso. È chiaro che bisogna stare attenti, però, perché è vero che alcune auto si fanno queste cose su auto superiori ai 50-60 mila euro perché la convenienza sia tale. Certo. È vero che negli Stati Uniti, per esempio, trovi un SUV che qua costa 80 mila euro, riesci anche a trovarlo ai corrispettivi 50 mila euro, però poi c'è tutto il costo della pratica dell'importazione, che non è poco, e il fee, il cachet giusto di queste società che si occupano di importazione. Certo. Per cui occhio, fatevi bene i conti e rendiamoci conto che si tratta sempre di comprare un'auto che non si vede dal vivo, la si trova poi in Germania o in Inghilterra, e da lì poi bisogna portarla in Italia. Tutto sì. fattibile, e se fatto nelle regole che la legge impone, lecito, però non è detto che sia poi così conveniente, esatto. Con il rischio poi di aprire il container e trovarsi un sacco di sassi. Esattamente, ecco. ma infatti bisogna rivolgersi, come hai detto giustamente, ai siti dedicati, a persone di cui ci si fida. Tu hai dato giustamente per scontato l'acquisto online, io invece nella mia ignoranza avevo fatto presente che mi sarei recato in Inghilterra proprio per la diffidenza a priori che avrei dall'acquisto online di una cosa così importante come una macchina. Posso capire una cravatta, ma acquistare online una macchina del valore di 80.000 euro come tu ci stai raccontando, beh, francamente può essere il mercato dell'usato come lo vogliamo, ma io personalmente non mi fiderei mai. Comunque ringrazio veramente Roberto per queste dritte che ci dà. Ricordo il sito di cui è direttore, turismoinauto.com, e nel ringraziarlo per i suoi consigli e per la sua cortesia dico grazie anche a Pietro Lacorte in regia ed Elisabetta Fusconi in studio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. Buongiorno a tutti.